Sapessi loro cadenite, coppe capille vostre oro vero, vorria sapere che è stato gioielliere, dici demmello, dici demmadostà. La curiosità che a me vorria levare sarà l'amore, sarà sto cuore. Dici la verità che nascondi da fa, sinceramente vorria sapere. Me venne un pensiero, si questa è la ragione, se io vero non ho vero, ma non sanno che pensa. Beve con prima dolce, dopo amare la perché, dicite nel perché, dicite nel perché. È una curiosità che non fa campare, sarà l'amore, sarà sto cuore che sempre mi fa stare.